Parte quinta. Ben fortificata. La tenerezza gli renderà incandescente il cuore, e la sua spada è d'acciaio. Vedeva svolgersi il sole al tramonto, sebbene meditasse grandi rivincite, avendo vinto la notte. Dunque il sole era di fuoco in ogni luogo e risplendeva per sempre nella sua continuità. Un profondo silenzio, il totale silenzio della coscienza uscita dal gorgo, quella di chi è entrato in una spiaggia sicura. Ben fortificata alla pioggia, ben sommessa al dolore, ben recapitata fra i tanti filtri delle esperienze, sapere che la luce è tua madre e il sole quasi tuo padre e le membra tue e tuoi figli, sapere e tacere e parlare e vibrare e scordare e ritrovare l'ombra di Gesù che seppe torcersi fuori della miseria in tempo giusto per la carne di Dio, per lo spirito di Dio, per la eccellenza delle sue battute, le sue risposte accanitamente perfette, il suo spirito randagio, sapere che la veridica cima canta in un trasporto che tu non sempre puoi toccare, sapere che ogni pezzo di carne tua è bramata dai cani. Noi nascemmo col sole a picco su scogli verdi e muschi e piante di altri luoghi e stagioni. Cosa cercavi, ci dicemmo, fra il vento e l'altezza della vista su quel quarto di mondo? Non era qualcosa per sé, non quella intensa cosa della giovinezza che ognuno aveva dato senza temere, non quella per cui si muore, no, quello che era di tutti, ci riguardava a noi e gli altri come una stella così grande, una stella i cui raggi infiniti, eccetera. L'aveva srotolato il tempo, si guardava alle miniature dei suoi giorni ed era un riso e un pianto e una beatitudine. Se mi vedessi come son bella adesso che io sono. Dopo il reo confesso commento pronubizia, fra di me la mia parte ancora in mano lesta. Ora che la sostengo al mancamento, ora che la sostento al mutamento, voce in maschera che permutava sé in figuranti pennose, ora rappella, assorda all'ordine adesso che veramente mento. Se mi vedessi come son bella adesso che assodo, dopo rotto le fila delle figurine soffiate in pezzi di oculi lustri come biglie ruteanti guatando vitre a un guado funebre, ora che soffino fuori il dentro cestino svuotamento e addento il feci fuori che assolvo e assorbo in dentro, adesso che mille più di mille di me son più di mille volte meglio. Lo sforzo del desiderio inarrestabile lo porta osare fino dove nessuno ha mai osato credere, certi che i nostri sogni in parte dimenticati ora fossero veri, prendere in mano la sorte del suo destino e integrarlo e diventare l'agognato essere dei sogni. Disse che anche la poesia andava detta in un altro modo perché servisse ad altre schiere, cadere e perché diventasse movimento attivo senza ritorno ogni volta che il desiderio avesse preso una forma e il dominio. Tutto l'assillo e il procrastinare furono dovuti a una sorta di concupiscenza, sempre quella, e nominarla passione, dove il corpo può immergersi, fa il suo tremendo mestiere, il corpo arricchisce la mente nel suo modo possibile e migliore l'infermità accumulata nei centesimi del tempo. Di attendere sembrò irreversibile. E solo dopo l'invincibile rinuncia se lo permise di godere, scavalcando così i suoi resti riemergenti, allora in nuova energia. Le creature così vaganti da impazzite quasi mai raggiungono la riva, quasi mai infrangono lo specchio, raramente congiungono a sé la propria sorte, perché non si danno pace, oppure non si fermano. Questa paura smisurata ancora una volta abbandona il mondo. Tu, se lo accetti, quel lago immenso della solitudine, la condizione, un androgino pieno d'orrore e di risentimento, si lasciò percorrere al di là della sua storia. Ma sì, sotto quella calma, sotto le stelle in alto, pace. Disse, sperava. È un'aria improvvisa di sera tranquilla. Sì, il timbro dell'inutile. Veniva da ridere sommessamente a tutte quelle rincorse sul bello. Essa stava lì, nel centro, cuore bollente, Aurora. Essa stava lì. Nel centro cuore bollente Aurora. Essa stava lì, nel centro cuore bollente Aurora, da non fermarla, da non fermarla.